Poi mi torno per il macungo, che arriva a bomba, che c'è con il burcondo in oro. Buon poi mutuo! Buon poi! Buon poi! Buon poi mi torno con il bucai, buon poi mi sapri saro, buon poi mi sapri saro, buon poi mutuo! Buon motore che tende malondo, gente tende chilombi, mi mia mono mamante, buon buon motore! Buon buon motore! Buon buon motore! Buon buon motore con conca cacate pate con conuit mirambo, che motore! Buon buon motore che c'è un buon curvare ma quanto buchi nel sambur vuoto buon buio dar tortu baba bu gitti tortu var bu şek uğur bamur kumaş maşa bu kumara bu yok maşa demiş ve ben tut tut tut tut mambu ya mambu mı şong şama baba ningin la basasa kuka ningin kan bari mambu di bu bir şom kankene Mwambui motwe, mwambui motwe, mwambui motwe kiten marondo, njende ten kilombe, njimye mulu mamande, mwambui motwe, mwambe, mwambui we, mwambui motwe kumbere makungu kadivu kapeambomba kaseka buru kontu nolo, mwambui we, Mwamboi mo muri shongra mikanda mikanda ngoyogra babende mwamboi ke motwe eh